Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accane e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di periodi ipotetici, di ritirate strategiche, ultimi rifugi, nonché manifestazioni di trionfo.